Effetto Mondo. Eccoci qua, buongiorno Giulia Crivelli. Ciao. Buongiorno, come ben avrebbero ritrovato. Bisogno di pioggia in Australia, ma va bene, parliamo anche dopo. Anche sì, erano annunciate tra l'altro un po' di piogge. Troppo poco, non si riesce a placare questa ondata di incendi, credo veramente senza sì, tra l'altro oggi guardavo, precedenti. Perché io sono un po' ossessionata da questo e me lo sogno anche di notte, guardavo i dati, ci si dimentica anche il confronto con la Siberia, ormai siamo già al doppio degli ettari bruciati rispetto alla Siberia, che già era stato peggio dell'Amazzonia e peggio della California, quindi Poi anch'io mi sono un po' documentato, pensa a che patrimonio dal punto di vista proprio della flora e della fauna, no? Queste foreste sì, tropicali, subtropicali immense che circondano l'Australia, che stanno andando in fumo perché sono ormai delle polveriere secche, completamente secche. Ci arriviamo un attimo, però sì. Cominciamo con la Spagna, perché è una di quelle telenovele che abbiamo seguito tanto e la notizia è... Sì, speravamo di poterla già dare dopo, insomma, martedì quando c'era stato il primo voto e in realtà, cioè lunedì quando c'era stato il primo voto, in realtà ieri abbiamo cercato di seguirlo in diretta ma non ci siamo riusciti, poi però alla fine il voto c'è stato della cosiddetta fiducia al governo in Parlamento e Sánchez quindi per la secondo voto ce l'ha fatto per soltanto due voti, 167 a 165. El País titola a tutta pagina, non l'ho mai visto su El País questo, Sánchez presidente del primo governo di coalizione, perché è la prima vera grosse coalizione che la Spagna sperimenta. Grosse coalizione che si regge su un minuscolo partito, i famosi indipendentisti, quindi esatto. El Mundo invece è molto critico e sono stati molto critici anche i parlamentari di Vox che sono proprio usciti ieri dal Parlamento, perché dicono questo non è, secondo il nostro modo di considerare la democrazia, un governo legittimo. Il commento di El País invece no, è un governo legittimo perché rispetta le leggi della Costituzione spagnola. Ma sentiamo la presidente del Parlamento spagnolo che proclama appunto l'esito della votazione. Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 167. Votos en contra del candidato, 165. Che lingua stupenda è. Poi dopo, ripeto, ci sono stati tutti gli interventi. Sánchez naturalmente felice, lo si vedeva anche dal viso. E mentre, come vi dicevo, tutti i partiti che non sono entrati in questa grossa coalizione, molto critici. El Mundo, tra l'altro, pubblica una foto di Pedro Sánchez che abbraccia Pablo Iglesias. Sánchez è sorridente, Pablo Iglesias un po' meno. Come perché? Se fosse, vabbè, ok, se... Si è dovuto fare, io però anche perché Iglesias ha dovuto promettere sì. Che non chiederà certi ministeri chiave che forse Podemos avrebbe potuto desiderare tempo fa, ma qui naturalmente si tratta del minore dei mali, almeno un governo c'è ed è scongiurato l'ingresso di partiti di estrema destra. Vedevo sui social che si commenta molto un programma molto spostato a sinistra, quindi Podemos dovrebbe da questo punto di vista essere soddisfatto sì. Bisogna vedere poi se questo programma molto di sinistra, questo governo in bilico per un voto o due di vantaggio avrà certo. Diciamo, una forza di realizzarlo questo programma. Che abbiamo visto insomma anche qui da noi, poi dopo alla prova ci sono i nodi che magari passano in secondo piano nel momento della votazione, poi dopo però vengono al pettine come tutti i nodi per definizione. Allora, vogliamo andare in Francia, anche questa è una telenovela ormai sì. Da quando sono iniziate le proteste contro la riforma delle pensioni. Anche perché come tutto il mondo credo, da una parte dobbiamo stare attenti, dobbiamo interessarci a quello che succede in Medio Oriente e in Libia, e dall'altra però ogni paese ha le sue questioni interne, come dicevi tu per la Francia è la riforma delle pensioni. Edouard Philippe, che è il premier, praticamente è stato mandato avanti a nuotare in questo mare di squali diciamo da Macron, che come sappiamo invece è molto impegnato sui teatri geopolitici internazionali, e a questo punto per esempio Le Figaro ipotizza che la famosa età entro la quale, sotto la quale non si può scendere per andare in pensione potrebbe essere rinegoziata, i famosi 62 o 65 anni, poi però la fotonotizia è dedicata a soldati americani che salgono su un aereo militare americano. Anche Le Monde, grande foto con Edouard Philippe al centro che siede all'ennesimo tavolo negoziale. Poi ci sono degli approfondimenti sulla scelta che devono fare gli studenti e ci sono delle novità anche in Francia per quest'anno, come in Italia devono scegliere le scuole secondarie, e poi un articolo molto interessante sul sulla filantropia e sulla filantropia soprattutto sui lasciti testamentari. Sappiamo che negli Stati Uniti, per esempio, quando andiamo vediamo i musei che hanno magari intitolati proprio. Il tema però è anche quello, e Le Monde ci torna, di quanto vengono tassate le eredità, perché la Francia, a differenza di quanto avviene adesso in Italia dopo una riforma introdotta dal governo Berlusconi, in realtà in Francia le eredità hanno delle tasse altissime. Quindi negli Stati Uniti sicuramente c'è una vocazione all'ascito, alla propria morte, però c'è anche il fatto che fiscalmente questi lasciti sono molto favoriti. Allora, stampa tedesca, ci sono degli spunti oggi? Sono ovviamente molto attenti a quello che succede in Iran. Tra l'altro c'è una foto che non ho visto altrove, scattata ai funerali. Sono delle donne che sulle spalle portano uno scialle con la foto di Soleimani. Quindi il titolo naturalmente sono le minacce incrociate, ma anche già gli attacchi iraniani alle basi irachene dove c'erano i soldati americani. Mentre Tagesspiegel ha la foto di un canguro bruciacchiato, sapete che l'isola dei canguri, che era un po' un'oasi sia per i canguri che per i koala, praticamente metà è bruciata, l'abbiamo perduta. E quindi Tagesspiegel titola la catastrofe che nessuno avrebbe potuto immaginare. E questo però ci porta in realtà, ecco, in Australia, perché sì, ovviamente i quotidiani australiani sono pieni di cronaca, però ha fatto 2,5 milioni di visualizzazioni un video di Chris Hemsworth, che forse ricorderete, un uomo stupendo, ha interpretato tra gli altri Thor, quindi immaginate, facendosi venire anche dei muscoli più grandi di quelli che ha. Lui è australiano e ha lanciato questo appello, naturalmente dando prima il buon esempio, ha donato più di $1 million per aiutare, per i primi aiuti alle persone che appunto hanno perso la casa o hanno bisogno di assistenza. Ma sentiamolo. Heading up the driveway towards his home through the burnt out bush, Bruce Honeyman knew what was waiting. Abbiamo fatto io forse un po' di pasticcia a indicare il link a Jacopo, e gli chiedo scusa, perché in realtà questo video era inserito all'interno di un servizio dove si accompagnavano delle persone a vedere le rovine delle proprie case. Però insomma, ve lo riassumo io, poi se lo cercate. Chris Hemsworth appunto ha fatto questo video su Instagram, che ripeto, un'ora fa aveva avuto 2,5 milioni di visualizzazioni, dove dice: io ho donato $1,2 million australiani, quindi circa $1 million, fate tutti la vostra piccola parte, perché l'Australia, insomma, è il paese dove sono nato, è in uno stato di emergenza che nessuno riesce a ricordare così grave prima di oggi. Accogliamo l'appello. Senti, invece, per quanto riguarda gli Stati Uniti, scusami, sull'Australia volevo aggiungerti una cosa, perché in realtà sui quotidiani australiani si comincia anche a parlare dei risarcimenti, perché a differenza di quello che succede in Italia, dove credo pochissime persone sono assicurate, io penso che farò un'assicurazione contro gli incendi, non si sa mai, però sappiamo che quando c'è un terremoto o un qualsiasi altro disastro naturale, nessuno, benché esistano queste assicurazioni, era protetto da un'assicurazione. In Australia invece sì, cioè queste assicurazioni sono abbastanza diffuse. Adesso però, se tutti chiedessero il risarcimento, si comincia a ipotizzare che tante compagnie potrebbero andare per aria, o comunque bisognerà trovare un modo perché non vengano rimborsati tutti i premi nello stesso momento, perché non sarebbe possibile. Quindi c'è questo aspetto economico che comunque verrà fuori nei prossimi, quando si appunto, magari quando l'emergenza, se pioverà, si spera, quindi quando l'emergenza proprio dello spegnimento calerà un pochino, verranno fuori poi i temi economici, i bilanci economici. Allora, non abbiamo più moltissimo tempo in realtà, e volevo chiederti sugli Stati Uniti, sull'Iran. Trump non ha ancora parlato, siamo in attesa insomma di una dichiarazione, sì, di questo tweet stanotte. Sì, ha parlato Bolton, che tra l'altro aveva dato la sua disponibilità per testimoniare in Senato per l'impeachment. Adesso forse il Senato semplicemente non lo vorrà nemmeno sentire, e il confronto in questo momento è sempre più duro sia con i repubblicani, hanno parlato Elizabeth Warren da conto il New York Times e tutti gli altri, Bernie Sanders l'aveva già fatto, ma soprattutto sono gli esperti del Pentagono che cominciano ad alzare un po' la voce e dire: forse questa è stata veramente una mossa azzardata che naturalmente alcuni di noi avevano sconsigliato, e di questo parla per esempio il Washington Post. Grazie Giulia, è tutto. Giulia Crivelli, ci risentiamo domani naturalmente con Jacopo De Franchi in redazione, Valeria Bernardi in regia, Alessio Maurizi, l'auguro di una buona giornata. Ci risentiamo tra poco per gli aggiornamenti di GR24.